Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Domenica 25 novembre 2012 è la 42esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Silvia Vallecchi, Lorenzo Guadagnucci e Valentina Reggioli. Vi presentiamo la musica di oggi. In tema equino, come sentite in sottofondo, apriamo con un classico della TV pomeridiana dedicata ai ragazzi, Paul Bradley Cooling, cantante britannico naturalizzato italiano, meglio conosciuto come Mal, noto anche per le sue camicie bianche con farfalli e pantaloni attillati anni 70. Mal gorgheggia per noi di un povero cavallo che non vogliamo sapere come sia stato addestrato negli studios di Hollywood e che avrebbe avuto ben ragione a diventare appunto una furia. Sempre in tema equino, per la rubrica Visti da vicino, abbiamo scelto un gruppo classico americano che colpisce per due ragioni. La prima è che i tre componenti erano tutti di padre americano e madre inglese, ma non erano fratelli. E la seconda è che uno di loro si è poi convertito al cristianesimo e ha pubblicato alcuni album di musica religiosa contemporanea. Per la rubrica Animal House e il reportage dal campo antibracconaggio che si sta tenendo in questi giorni in Sardegna nel Sulcis grazie all'associazione tedesca CAPS, abbiamo scelto la colonna sonora di un film diretto da Elio Petri, interpretato magistralmente da Gian Maria Volonté, che fa letteralmente impallidire Ozpetek, Soldini, Scamarcio e tutti gli altri protagonisti del cinema italiano contemporaneo. Per le perle agli umani, visto che si parla di roditori da laboratorio, abbiamo scelto un pezzo magnifico e notturno degli Echo and the Bunnymen. Per la rubrica di cucina non violenta e il pasto gentile, proponiamo un duetto composto da due dolci fanciulle e chitarrina che, sedute sul tavolo di cucina, cantano una deliziosa ballata titolata Love Cake. Oh my God! La nostra Sara apprezzerà l'abbinamento? Ci sarà spazio anche per un famosissimo pezzo tratto dall'opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Si tratta della canzone intitolata Mackie Messer di Kurt Weill. D'altra parte, trattandosi di una notizia che riguarda Federfauna, sindacato di allevatori, circensi, macellatori e simili, il cinismo negli affari stigmatizzato da Brecht ci pareva quanto mai calzante. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills. Per la nostra rubrica dedicata all'incontro con gli animali e che vuole anche dare qualche esempio di come gli animali non debbano essere considerati per razza o per specie, ma come individui, siamo tornati a Cavour da Fabrizio, il nostro amico allevatore pentito. Qui siamo con Petra che va a cavallina araba. Quando sì. È arrivato da voi? E Petra oramai sono 3-4 anni che è con noi, è arrivata dal suo vecchio proprietario che la usava da sella, che non la aveva cambiato il cavallo, la cavalla era vecchia, non voleva darla da macello perché c'era affezionato, allora l'abbiamo riscattata con poco e adesso vive così, passa il resto della sua vita al pascolo, è una cavalla che ha quasi una trentina d'anni, o va sulla trentina, dunque è già una buona età per il cavallo. Comincia ad avere i primi segnali di fatica nell'assimilare le sostanze, sai, date dalla vecchiaia, però comunque fa una bella vita, sai, al momento è libera. Non è... Quando è arrivata aveva problemi che vi hanno messo un po' in ansia? Sì, già dovuti a questa sua carenza nell'assimilare le vitamine, sai, ci ha messo in ansia perché ha cominciato a venire molto magra, nonostante venisse foraggiata, però non assimilando le vitamine, ancora adesso la vedi, sta bene tutto, però è magra, nonostante sia perennemente al pascolo, che può disporre dei vegetali che vuole, con una buona secchiata di fioccato alla sera, perché proprio per tenerla su, però non è neanche così, non è una cavalla grassa, diciamo. Sì, è molto asciutta. Sì, molto asciutta. È anche molto docile, si fa carezzare tranquillità. Sì, sì, per quello ha un bel carattere. Nonostante che ha sangue arabo nelle vene, che per i cavalli un po' come la dinamite, sai, sono cavalli molto irrequieti, molto timorosi, invece lei è... dato anche dall'età avanzata, comunque, sai, poi avrà capito che qua non c'è nulla da temere, sai, dunque i rapporti sono ottimi. Ogni tanto vedi che nella recinzione senza corrente elettrica rispetta il filo, liberamente filo, quando è stufa ci salta fuori, ma si fa il giretto e voilà, diciamo che qualcosa deve combinare, se no il tempo lo deve pur passare anche lei, però è docile come... Sta da sola abitualmente? La lasciamo prevalentemente da sola perché con gli altri sono in competizione al pascolo, dunque la fanno sempre correre. Lei, essendo già magrina, la teniamo da sola per una sua garanzia, sai, che non sia soggetta a un dispendio di energie proprio perché fatica già ad assimilarle. Infatti quando è da sola, sai, è più tranquilla, non c'è nessuno che la fa correre, può alimentarsi con calma, a differenza degli altri ha un'alimentazione molto lenta, vedi che strappa i ciuffetti d'erba, sai, non è una cavalla come gli altri che andiamo a vedere ora, che vedi che ci danno dentro, sai, all'erbaio. Questa mangia quasi timorosa, e allora per evitare proprio che ci sia competizione all'interno del suo recinto, sta da sola. Il proprietario che l'ha voluta, diciamo, salvaguardare, vi è venuto a cercare lui? Sì, viene ancora adesso, sono diventati anche amici, ce li abbiamo ancora tuttora, che sono persone appassionate di cavalli, però c'è da dire che rispetto ad altri, sai, anche al momento del cambio del suo animale non l'ha destinato malamente, sai, in qualche modo, anche se non andava più bene da sella, si è assicurato che continuasse a vivere. Non tutti i cavalli da sella sono così fortunati, purtroppo tanti quando raggiungono l'età limite e che non possono più essere utilizzati passano a miglior vita per vie forzate, sai. Contribuisce al mantenimento della sua ex cavalla? Sì. Qualche volta ci aiuta, dunque non ci possiamo lamentare. So che tua moglie è appassionata di cavalli. Sì, la passione dei cavalli arriva... Dov'è oggi? No, col cavallo. Com'è questa dialettica tra te e tua moglie su questo tema? Ma no, abbastanza, ti dico, lei diciamo che è molto affezionata al cavallo, sai, ha il suo cavallo, dunque c'è un rapporto stretto, non il classico per dirti che possiamo vedere in ambiti agonistici dove il cavallo è alla stregua magari di una moto, sai, qualsiasi altro oggetto attraverso il quale, sai, persegui un fine. Invece se andiamo a vedere nell'ambito trekking, passeggiato, che rimane per carità il cavallo col fantino sopra, su quello, cioè ce ne sono purtroppo pochi che si portano il cavallo a spasso al guinzaglio, però c'è da dire gente appassionata anche del benessere del suo cavallo, difatti si vedono, sono cavalli spesso molto ben tenuti, cioè non gli manca nulla. Nulla a che vedere col mondo che può essere quello agonistico. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Thank you. scorso abbiamo cominciato a raccontarvi un campo anti-bracconaggio che si sta svolgendo in questi giorni nel Sulcis, in Sardegna. Che senso ha far morire impiccato a un cappio in crine di cavallo un magnifico pettirosso? Perché viene fatta strage di innocenti e innocui tordi? Oltre al gusto dell'orrore, cosa muove le carabine a puntare verso dei minuscoli pennuti che arrivano stremati alle nostre coste dopo una faticosa migrazione dal Nord Africa? Ne parliamo con Giovanni Malara, uno di quei rari personaggi onesti e schivi che, rifuggendo da qualsiasi clamore mediatico, svolgono un ruolo dall'incalcolabile valore civico e sociale. Nato a Reggio Calabria, Giovanni ha un risveglio in giovane età e decide di impegnarsi in una battaglia al bracconaggio, un fenomeno diffuso in tutta Italia e purtroppo ancora troppo tollerato, che prevede magre onorificenze, ma che ha un valore ecologico immenso, di cui è consapevole però solo chi è bene informato. Giovanni collabora con svariate associazioni italiane ed europee. Oggi, assieme ad altri volontari, si sta impegnando nel Sulcis, vicino a Cagliari, in Sardegna, in un campo anti-bracconaggio con l'associazione tedesca CABS, che organizza tantissimi campi in Europa per combattere l'insensato sterminio dei pennuti. Questi campi consistono in lunghe passeggiate nei boschi, ma sono tutt'altro che passeggiate spensierate. C'è da piazzare telecamere, da smantellare reti, da disinnescare trappole, poi da osservare filmati, andare dai carabinieri, sporgere denunce, eseguire ricerche, pubblicazioni, perizie tecniche, riconoscimenti, pedinamenti, appostamenti, cogliere in flagranza di reato bracconieri armati e pronti a tutto. Quindi è importante agire in gruppo, guardarsi alle spalle, sorvegliare le automobili e a volte tutto questo non basta. Troverete molte informazioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Oggi continuiamo la nostra conversazione con Giovanni e gli chiediamo quali sono le sanzioni in ballo per bracconieri e uccellatori. Dove il soggetto che uccide una specie protetta sia un cacciatore, in caso di recidiva, cioè nel caso in cui lo faccia più volte e venga condannato, può perdere la licenza. Invece un uccellatore non perde niente perché non ha nessuna licenza. E se gli viene applicata una multa di 400 euro, se viene preso una volta in 10 anni, ti rendi conto, insomma, che si è guadagnato in quei 10 anni, la sanzione lascia il tempo che trova. E quindi come andrebbero modificate le leggi a riguardo? E potrebbero essere modificate senza alcuno sforzo se avessimo un Parlamento un po' più serio, le parti che riguardano appunto le sanzioni penali su forme che non sono venatorie, cioè l'uccellazione non è più considerata un fenomeno venatorio ma è un fenomeno illegale pure e semplice. Quindi se ad un uccellatore venisse applicato il furto perché lui sta catturando una specie che sia cacciabile o che sia protetta senza averne una concessione da parte dello Stato e quindi è un ladro, se venissero modificate queste norme ovviamente questi soggetti ci penserebbero bene, invece dopo processi che durano 4-5 anni o vengono assolti per prescrizione o pagano una piccola multa e questo lascia il tempo che trova. Con le leggi vigenti che cosa si riesce a fare? Devo dire che noi siamo riusciti, e questa è una cosa che va sottolineata, lo scorso anno a ottenere una soluzione assolutamente innovativa proprio qui nel Sulcis, perché a questi soggetti che abbiamo identificato tramite la ripresa con telecamere abbiamo chiesto che venisse applicato il foglio di via, quindi una misura di prevenzione che impedisce, vieta, qualora venga adottata dal questore di competenza, a questo soggetto di frequentare il territorio del comune in cui esercitava l'attività illecita. Siamo riusciti a ottenerlo per un paio di questi soggetti, infatti quest'anno abbiamo riscontrato che non sono più presenti. Giovanni, spiegaci in cosa consiste il vostro lavoro di contrasto. Bisogna individuare un sentiero con i lacci e poi trovare un uccello che sia stato catturato, che non sia ormai più in vita, e su questo nascondere una telecamera. Da quando siamo qui, quindi dal 27 ottobre, abbiamo calcolato di aver fatto circa 130 km a testa a piedi. Poi siamo costretti a presentare una denuncia all'arma dei carabinieri e poi ci deve essere l'identificazione di questo soggetto, perché ovviamente non sempre è noto. E alla fine si inizia quel procedimento di cui esito sfugge, ci può essere un decreto penale di condanna, poche centinaia di euro, oppure ci può essere un procedimento penale vero e proprio che va avanti per anni e alla fine si prescrive. E oggi per esempio com'è andata? E oggi abbiamo trovato un grosso sentiero sul quale interverremo nei prossimi giorni, però non c'erano animali né vivi né morti perché il soggetto era appena passato. Gli uccellatori professionali passano tutti i giorni. E possiamo immaginare cosa lasciano in giro? Quando noi ci dedichiamo all'attività di distruzione, alla quale viene riservato un determinato periodo di questi campi, alla fine torniamo a casa con migliaia di lacci e trappole, poi lacci per cinghiale, lacci per cervi, cioè qui è come un'università per il bracconaggio, ci sono tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Abbiamo trovato una volta un cervo ormai marcito perché era stato catturato per la zampa, e anche questi strumenti di cattura sono frequentissimi, specialmente vicino ai corsi d'acqua dove gli animali vanno a bere, vengono messi molti di questi cavetti metallici che non lasciano scampo perché prendono gli animali per le zampe e per la testa e vengono sottoposti a una lunga agonia finché non muoiono per arresto cardiaco. Insomma, un animale dal laccio è impossibile che si liberi perché ovviamente strattona e quindi stringe sempre di più. E in tutto questo far denunce, appostamenti, pedinamenti, riconoscimenti, videoriprese, immagino che abbiate rapporti con le forze dell'ordine. Beh, abbiamo avuto la fortuna di trovare un generale che comanda i carabinieri in Sardegna che è molto sensibile, il generale Robusto, approfitto per ringraziarlo, sono molto collaborativi, ovviamente nei limiti del possibile perché sono dei reati assolutamente secondari, non vengono considerati normalmente prioritari, però in questo caso siamo stati fortunati perché si è capito che uno degli alibi che hanno sempre impedito l'intervento delle forze dell'ordine qui era che si trattava di una zona molto povera, che in fondo questi uccellatori facevano un danno limitato perché si limitavano a prendere degli uccelli di scarso valore che non interessano a nessuno. L'importante era che non venissero catturati cervi, sardi. Baratto ignobile, perché non è vero che se si lascia mano libera agli uccellatori poi questi non mettono i lacci per i cinghiali e per i cervi, sono sempre gli stessi soggetti che quando gli viene lasciata mano libera fanno quello che vogliono, e quindi se ci trovassimo in uno stato serio verrebbero perseguiti in maniera più decisa, e ti assicuro che in un anno qui scomparirebbero tutti, perché noi siamo in 5-6 qui presenti e riusciamo a infliggergli questi colpi. Figurati se ci fosse un corpo organizzato che fa il suo dovere in maniera seria, insomma queste persone scomparirebbero subito. Perché esistono associazioni per la salvaguardia e la conservazione degli uccelli? Oltre al loro diritto imprescindibile alla vita e alla libertà, qual è il prezioso ruolo che gli viene riconosciuto? Intanto non è vero che gli uccelli non contino niente, perché sappiamo benissimo che la rinnovazione del bosco passa attraverso gli uccelli, quindi anche quello che viene considerato insignificante, se non ci fosse il bosco non si potrebbe riprodurre e quindi morirebbe. Ma cosa sarebbe possibile fare a partire da adesso? Sia modificare le norme, quindi quello che dicevamo prima, ed anche essere più severi nelle applicazioni delle sanzioni, e poi svolgere l'attività di controllo sul territorio in maniera più seria, perché torniamo sempre allo stesso discorso, sono i volontari alla fine che risolvono i problemi di questo paese. Giovanni, c'è per te il ricordo della prima volta? Il momento in cui in te è scattato qualcosa? Sì, certo che c'è. Io la prima volta che sono rimasto colpito avevo 15 anni e stavamo giocando a pallone in un campetto sulla riva del mare. Questi falchi arrivano proprio dal mare e il compito dei ragazzi era quello di avvisare i cacciatori quando arrivavano, in modo che loro si potessero approfittare per ucciderli. E mi ricordo che questi animali passavano bassissimi sul campetto, e noi che eravamo piccoli li vedevamo enormi, perché sono animali anche abbastanza grossi, quindi tutti hanno cominciato a correre verso il paese che era distava almeno un chilometro, e poi quando siamo arrivati nel centro del paese, nella strada principale, dalle terrazze si sparava a questi animali e cadevano sulla strada e correvano, perché poi il pecchiaiolo sembra una gallina quando è per terra, e tu vedevi questi animali feriti che correvano per strada. Quindi insomma sicuramente questo ha rappresentato un evento traumatico che poi ha portato all'interessamento successivo. Sì, c'è sempre una molla che ti fa scattare queste dinamiche. Giovanni Malara, restiamo animali? Restiamo animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Under a blue moon I Questa volta parliamo di un fumetto di culto, pubblicato dalla casa editrice del compianto Sergio Bonelli. Mi riferisco a Dylan Dog, noto anche come l'indagatore dell'incubo, ideato da Tiziano Sclavi, che esce per la prima volta in edicola nell'ottobre del 1986 con l'albo L'alba dei morti viventi. Ex agente di Scotland Yard, Dylan Dog è vegetariano e animalista, per cui tutte le estati si schiera in prima linea contro gli abbandoni di cani e gatti. Per vivere fa l'indagatore dell'incubo, viene cioè ingaggiato da clienti che si trovino alle prese con dei mostri. La cosa bella o brutta del fumetto è che non si tratta soltanto di zombie e licantropi, ma anche di mostri ben più terreni e reali. Un numero particolarmente importante per noi è il 263, che si intitola La collina dei conigli, uscito nell'agosto 2008. Ci è particolarmente caro perché è dedicato al tema della vivisezione, pur affrontandolo con il pathos tipico di questo meraviglioso fumetto. Dylan Dog è chiamato da un gruppo di abitanti della campagna inglese, spaventati dal ritrovamento di animali selvatici, sbranati, non si sa bene da cosa, e dai lamenti che si sentono durante la notte. Ci vuole poco a capire che i responsabili delle aggressioni sono un gruppo di migliaia di conigli zombie, che si cibano di tutto quello che si trovano a portata di mano, dalle volpi alle persone. Dylan viene morso da uno di questi esseri e si ritrova in un sogno incubo nel quale la realtà è capovolta. Nel sogno, che dura 5 pagine, le uniche peraltro a sfondo nero di tutto l'albo, Dylan è rinchiuso in una gabbia di acciaio, assieme a centinaia di esseri umani, nudi ed ammassati. Sono piccoli piccoli contro due scienziati in camice bianco, che appena si girano si capisce essere due conigli. La vivisezione è così raccontata tramite lo strumento dell'immedesimazione. Uno dei due scienziati prende la cavia, Dylan, e gli inietta un farmaco nel collo, per poi metterlo in una trappola di contenimento che gli isola la testa dal resto del corpo. Oltre alla disperazione del non potersi muovere, viene enfatizzato anche l'aspetto emotivo del ritrovarsi accanto al compagno Grucio, anche lui nelle stesse condizioni, ed entrambi senza scampo. Nel seguito della storia si parla esplicitamente di vivisezione. Un sopravvissuto ai conigli mannari racconta di essere stato in passato un dipendente di un laboratorio di ricerche sugli animali, proprio nella collina dei conigli. Il posto ideale, spiega, in cui nessun ambientalista sarebbe venuto a ficcare il naso. Si scopre così che i conigli mannari sono quegli animali che, scarti della vivisezione, venivano sepolti ancora vivi per far risparmiare agli sperimentatori soldi e tempo. Sono tornati per vendicarsi dei loro aguzzini. L'invasione cessa quando l'ultimo sperimentatore, colpito da rimorsi, decide di farla finita. I conigli spariscono, tornando da dove erano venuti. La storia finisce con Dylan Dog che scrive sul suo diario: «A volte sogno che mi aprono il cervello. Il perché non lo so, ma è un test, e dicono che questo giustifica tutto. In un altro sogno mi procurano ustioni per testare farmaci». Ma il vero incubo arriva al risveglio, quando il sogno svanisce e la paura rimane. E forse non è nemmeno la paura la cosa peggiore, ma la rabbia tremenda che mi invade le viscere come se volesse farmi esplodere. Io credo che la forza di questa storia consista proprio nel fatto che obblighi il lettore a calarsi nei panni dell'animale dal laboratorio. Così facendo insinua nella sua mente l'idea che l'animale non è una macchina creata per i nostri interessi, ma un essere capace di provare non soltanto dolore fisico, ma angoscia e paura, e che la questione del benessere della cavia non possa essere risolta né con gabbie più grandi né con un po' di anestetico in più. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. I'm gonna bake you a love cake, I'm gonna bake you a love cake, I'm gonna put it on a love plate and serve it up to you. Ciao a tutti, sono Sara e oggi vi spiego come preparare un dolcissimo plum cake alla zucca e cioccolato, pur essendo molto goloso e preparato con ingredienti leggeri, quindi concedetevene pure una fetta anche se siete a dieta, e non vi costerà più di 4 euro. Gli ingredienti sono una tazza e mezzo di farina, se la preferite potete fare metà bianca e metà integrale, mezza tazza di zucchero di canna, una bustina di lievito per dolci, mezza tazza di polpa di zucca cotta, 50 g di olio di semi, una tazza di latte di riso, 100 g di cioccolato fondente, un cucchiaino di cannella e un pizzico di sale. Per prima cosa cuocete la zucca nel modo che preferite. Io generalmente la cuocio a vapore. Lasciatela raffreddare qualche minuto poi mettetene all'incirca mezza tazza in una ciotola e con una forchetta schiacciatela meglio che potete fino a renderla una crema. Aggiungete nella ciotola la farina, lo zucchero, il lievito, la cannella, il sale. Mescolate bene, poi aggiungete l'olio e il latte poco alla volta. Per le quantità regolatevi un po' voi, il composto dovrà avere la consistenza di un impasto da torta e risultare bello morbido e liscio. Tritate la cioccolata a scagliette e incorporatele al composto. Ungete d'olio extravergine di oliva uno stampo da plum cake, cospargetelo di pan grattato e versateci tutto l'impasto. Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per almeno 45 minuti. Durante la cottura fate attenzione che la superficie non scurisca troppo, nel caso coprite con un foglio d'alluminio. Lasciate raffreddare completamente prima di servire, se resistete. Ciao, alla prossima! Und weg hieß der, hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ha deciso di istituire un premio intitolato ad Adolf Hitler, da attribuire a personalità di spicco dell'animalismo. È la notizia diffusa dall'agenzia di stampa qualche giorno fa, con un po' di scandalo, ma anche una strizzatina d'occhio. L'accostamento di chi difende gli animali a chi ha portato alle più estreme conseguenze le dottrine razziste e superomiste, sterminando milioni di ebrei, di rom, di oppositori politici, per non parlare delle catombe della Seconda Guerra Mondiale, a dire il vero non è una novità, ma l'idea di intitolare addirittura un premio al Führer del nazismo non era ancora venuta a nessuno. E tanto è bastato a guadagnarsi un lancio di agenzie e un po' di morbosa attenzione da parte di qualche giornale. A niente di più del resto poteva ambire Federfauna e per rendersene conto basta leggere in che modo è stata presentata l'iniziativa e compiere una rapida verifica su questa organizzazione. Adolf Hitler, dice Federfauna, era vegetariano, promosse leggi di tutela degli animali, ma sappiamo che cosa fece agli uomini. Quindi l'accostamento fra nazismo e animalismo sarebbe un modo per, letteralmente, citiamo dal comunicato di Federfauna, creare cultura attorno al settore degli animalismi e avviare su queste basi uno scambio di idee. Se pensiamo che Federfauna ha come presidente onorario Moira Orfei ed è una piccola organizzazione che passa di provocazione in provocazione per difendere chi alleva e sopprime animali su scala industriale, chi li uccide per divertimento e chi li usa negli spettacoli, verrebbe da dire tacciamo e passiamo oltre. E invece ne stiamo parlando perché l'iniziativa di Federfauna è una buona notizia. Mostra con la sua modestia morale e politica quanto sia in difficoltà, sul piano culturale e della comunicazione, chi tenta di contrastare la diffusione della prospettiva animalista nella società. La caccia e i circhi che usano animali, in particolare, paiono alla maggioranza dei cittadini retaggi crudeli del passato, privi di ogni ragion d'essere, di fronte a una sensibilità ambientalista e animalista che finalmente comincia a farsi largo. La strada verso la liberazione animale è ancora lunga, ma il patetico accostamento a Hitler dimostra quanto la storia nobile e anticipatrice del vegetarismo e dell'animalismo, che affonda le sue radici nell'antichità, faccia soffrire gli attuali paladini di pratiche violente e crudeli, superate dalla storia. A Roma il Papa riceverà in udienza i rappresentanti dell'Ente Nazionale Circhi, persone che lucrano sugli animali tenendoli lontano dal loro habitat e costringendoli a fare esercizi contrari alla propria teologia. In questa occasione è stata organizzata una manifestazione nazionale, con corteo per le strade della capitale e gran festa finale in piazza, con spettacoli di circensi ed artisti di strada. Il circo è divertimento, è svago, è gioia, e un divertimento moralmente giusto non si può basare sulla violenza, sulla schiavitù e lo sfruttamento di esseri viventi, costretti a un'esistenza crudele, piegati all'obbedienza con percosse, detenzione e fame. Esiste un mondo di acrobati e circensi che amano la propria arte e la praticano con gioia e passione, senza sfruttare gli animali. Questa sarà l'occasione per far conoscere tutte quelle realtà di artisti che non hanno molte possibilità di emergere a causa dell'egemonia delle grandi compagnie di circensi che godono di favori e contributi statali, nonostante lucrino sulla pelle di esseri indifesi, schiavizzati e tenuti prigionieri a vita. Si stanno organizzando pullman da tutta Italia per Firenze e Arezzo, prenotazione valida solo via mail a gat.roma1dicembre@hotmail.it. indicando sempre nome, cognome, città di provenienza, luogo di salita, recapito telefonico. Domenica 2 dicembre alle ore 13 presso il Circolo Culturale Arzac in via del Casato 18 a Sesto Fiorentino ci sarà un pranzo vegano di beneficenza in aiuto alle gattare sestesi che curano e sterilizzano a proprie spese i gatti randagi sul territorio comunale e di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata. La prenotazione è obbligatoria e va fatta telefonando a Stefano 338 83 82 898 o a Paola 339 49 43167 oppure per email a stefanootti@libero.it. Mi raccomando. Ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Sono lo sceriffo io! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.